Back on the restaurant terrace, Lorenzo has finished giving his order. But before we return to the meal, here's some new language. Ascolti l'italiano, l'inglese, di nuovo l'italiano e poi ripeta. Buon appetito. Enjoy your meal. Buon appetito. Una porzione. A portion. Una porzione. Una porzione normale. A regular portion. Una porzione normale. And now listen to the dialogue. Ed ora ascolti il dialogo.